cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Questa mattina parleremo nella prima parte proprio della questione migranti. Abbiamo sentito dal GR che una nave delle ONG è stata bloccata a Lampedusa per controlli e oggi ci sarà anche il voto alla Camera. Saranno con noi il Presidente della Commissione Affari Esteri Fabrizio Cicchitto, Luca Frusone del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega. Il decreto del Governo quindi all'esame di Montecitorio per autorizzare la missione navale italiana a sostegno della Guardia Costiera Libica. Ieri c'è stata l'audizione del Ministro della Difesa Roberta Pinotti e di quello degli Esteri Angelino Alfano e le navi della nostra Marina avranno come base il porto di Tripoli. Ma intanto c'è polemica sull'ONG, la notizia della nave bloccata a Lampedusa per controlli. Avremo con noi il presidente di Medici Senza Frontiere, Loris De Filippi. Com'è la situazione poi sull'altro fronte del Mediterraneo? Lo chiederemo ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Nella seconda parte invece ci occuperemo del caldo. Abbiamo sentito tutti, Lucifero è arrivato, ci sono già i primi SMS. Che cosa vuol dire temperatura percepita? Basta terrorismo, dice un radioascoltatore. E qui vi invitiamo anche a commentare o a darci informazioni su cosa sta succedendo anche nella vostra città. Vi ricordiamo il nostro numero verde 800 24 0024, oppure gli SMS 349 238 6666. E quindi confronteremo anche col climatologo Luca Mercalli e con la nutrizionista Elisabetta Marcosini. Poi c'è anche un piano anziani ed emergenza per Roma e Milano. Tanti temi, adesso ci fermiamo per dare la linea al traffico. Ma cos'è quest'estate? E noi abbiamo in linea Fabrizio Cicchitto, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, al quale chiedo oggi il voto alla Camera. Ieri si è spaccato però il centrodestra perché Forza Italia ha dato l'ok alla missione, la Lega invece no, anche il Movimento 5 Stelle no. Che cosa succederà? I nostri soldati che cosa potranno fare sulle coste libiche, presidente? Presidente? Allora, la premessa è che non è facile il rapporto con la Libia, per cui quando si dice blocchiamo i porti, respingiamo in mare e così via, sono delle formule che possono creare degli sconquassi. Il blocco dei porti è una formula che equivale a una dichiarazione di guerra. Chi sostiene questa tesi non si rende conto fino in fondo di questo. Quindi noi cerchiamo di intervenire in modo tale da sostenere la flotta costiera libica e attraverso questo sostegno, concordato evidentemente con il governo libico, di far sì che l'azione dei trafficanti venga contrastata e bloccata. Questo non si riesce a fare nelle acque libiche se non c'è il consenso dei libici. Quindi noi stiamo lavorando per questo. Formule diverse, più tranchant, sono certamente affascinanti, ma porterebbero ad una situazione insostenibile. Quindi quello che noi stiamo facendo, e questo è stato riconosciuto non soltanto dalla maggioranza, ma anche da Forza Italia, è un passo in avanti sul terreno del controllo del mare, evitando quella connessione che c'è stata in parte tra trafficanti e ONG che lavoravano, alcune di esse lavoravano non tenendo conto di tutto il quadro, per cui stiamo intervenendo anche sulle ONG. Insomma, si cerca di mettere sotto controllo una situazione difficile, sapendo che non è un'invasione ma è una fuga. Una fuga di massa, e quindi certo. Perché quando c'hai un'invasione la puoi contrastare militarmente, quando invece c'hai una fuga di massa di milioni di persone la cosa è molto più difficile e complessa. Ma che cosa accade in Libia? Sappiamo, da sempre divisa tra Tripolitania, Cirenaica, Fezzan. Alberto Negri, il governo italiano ha fatto questa missione a sostegno di al-Serraj, che è appunto a Tripoli, però adesso sta cercando anche un accordo con Haftar, che è in Cirenaica. Insomma, la situazione in Libia è spaccata come nel 1911, si può dire questo. Ma che cosa succede? Riusciranno poi questi due personaggi a veramente porre un argine alle fughe dal continente africano? Beh, innanzitutto noi parliamo di una Libia che più che uno Stato ormai è soltanto un'espressione geografica, perché nel momento in cui bombardarono con iniziativa francese la Libia nel 2011, bombardamenti cui si unirono subito gli inglesi e gli americani, beh, quella Libia è stata, che conoscevamo noi, costituita da Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, quella Libia è stata frantumata e non è più in realtà tornata insieme. Poi con la crisi politica del 2013 c'è stata la separazione netta tra Cirenaica e Tripolitania, con due governi in competizione concorrenti, e oltretutto con la presenza, non dimentichiamolo, sul territorio dell'ISIS. Questa Libia è stata bombardata nel 2011, è stata bombardata poi per contrastare il califfato, ci sono stati interventi armati da tutte le parti, sia di raid aerei che di truppe sul terreno. Beh, insomma, è il minimo, questo che ha fatto l'Italia, è il minimo tentativo in qualche modo di ricostituire un embrione di statualità libica. Non è un blocco navale, non è una grande operazione militare, è il tentativo dell'Italia di tornare in Libia per cercare di ricostituire un embrione appunto di uno Stato che non esiste più da tempo. Ma c'è bisogno anche dell'accordo con Haftar in Cirenaica? Ma questo non c'è dubbio, infatti secondo me questo è stato uno degli errori del governo italiano, un errore di calcolo, cioè appoggiare sì il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite di Tripoli, però un governo debole dove al-Serraj non ha alcuna presa sulle milizie, trascurando poi quel governo di Tobruk che poi in realtà è stato sempre sostenuto surrettiziamente dai francesi, dai russi e dagli egiziani. Peccato che in Egitto non abbiamo l'ambasciata aperta per via del caso Regeni, che di Mosca non ci fidiamo perché diamo sempre retta agli americani, che poi non fanno nulla che venga nei nostri interessi, e che la Francia sia un nostro competitor, un nostro acceso concorrente. Quindi che cosa succederà? Ci riuscirà l'Italia poi, a parte dopo questo accordo con Tripoli, a fermare le navi dei trafficanti? Ma io penso che sia un provvedimento tampone, questo non c'è dubbio, senza dimenticare il quadro generale, lo diceva anche prima il presidente Cicchito, qui il quadro generale, dobbiamo renderci conto che la Libia è il terminale finale di un grande movimento migratorio di popolazioni in fuga, di cui appunto la Libia è l'ultimo punto d'arrivo, poi ci sono tutti gli stati intorno, quindi la stabilizzazione dei paesi del Sahel diventa a questo punto indispensabile. Cioè, come tamponare una ferita quando si è feriti a morte, ecco, questa è un po' la tua tesi. L'Africa è talmente in ebollizione che è impossibile fermare i trafficanti. Luca Frusone del Movimento 5 Stelle, perché voterete no e avete votato anche no ieri in commissione? Buongiorno, salve. Neri già ha spiegato la situazione in maniera molto chiara e noi vediamo effettivamente come preoccupante questo schiacciamento del governo verso la fazione di Serraj. Sono 4 anni che i governi, prima Letta, Renzi e poi Gentiloni, appoggiano questa fazione, che di per sé, come posso dire, hanno anche le loro motivazioni, riconosciute dall'ONU, lo capiamo, però il dialogo verso le altre parti, non solo Haftar, perché il problema sono anche le 1000 tribù che circondano tutta la situazione politica, è ormai ridotto quasi all'osso. Infatti Macron in un certo senso ha fatto questo passo in avanti, è riuscito a mettere almeno insieme Haftar e Serraj. I risultati non sono stati quelli che si aspettavano magari, però è una cosa che noi avevamo chiesto già da tempo a questo governo, di fare un tavolo di pace con tutti gli attori libici, perché il problema è questo: noi vediamo questa missione come una risposta, una rincorsa a quello che ha fatto la Francia, una rincorsa anche piuttosto goffa, perché lo sanno tutti che questa missione non andrà ad intaccare i flussi migratori, almeno nell'immediato e anche nel medio termine. Poi dall'altra parte serve anche un pochino per rinverdire il ruolo di Serraj agli occhi della comunità internazionale, come per dire Haftar sta conquistando tutti i territori, noi comunque diamo ancora supporto internazionale a quest'altro attore. Questo per noi è un errore dell'Italia, un errore che ha fatto da anni e che dovrebbe recuperare. Poi, come dicevamo, c'è stata anche una modalità nella comunicazione della missione. Nel caos libico, che non è da imputare al governo italiano, però anche questa richiesta è utile ricordare che prima Serraj aveva richiesto l'intervento italiano, dopodiché c'è stata una smentita da parte del Parlamento, da parte di Serraj, dove non si parlava di intervento con navi italiane in acque libiche. Quindi c'è stato tutto un caos e anche i nostri ministri Alfano e Pinotti hanno contribuito a questo caos non rispondendo ieri durante la comunicazione al Parlamento ad alcune domande. Per esempio, non abbiamo ancora capito quali saranno le regole sul salvataggio dei migranti, dove andranno una volta salvati, se ritorneranno in Libia o se verranno comunque portati in Italia. Insomma, ci sono molte ombre che non ci danno la possibilità, visto l'atteggiamento del governo in tutti questi anni, di dargli un voto favorevole su questa missione che, ripeto, non ci trova contrari a priori, perché noi l'abbiamo sempre detto, anzi in Libia si doveva agire anche prima, come dicevamo prima, con un tavolo di pace. Sì, però voi fate sempre così, non siete contrari a priori, poi votate sempre no, però Frusone, il Movimento 5 Stelle ha questa tradizione in Parlamento, no? No, guardi, gli intenti possono essere anche buoni, ma poi nelle modalità. Non vi ha convinto. Vediamo che troviamo un caos indescrivibile, due navi messe lì davanti non servono a nulla. Okay. Servono semplicemente a far capire al mondo che l'Italia appoggia Serraj. Perfetto, questa è la sua tesi, tanto la risentiremo subito. Fabrizio Cicchitto, ha capito perché il Movimento 5 Stelle ha votato no? Una missione confusa. Lei, che è presidente della Commissione Esteri, ha capito che cosa ha voluto dire il ministro Pinotti quando ha detto l'autodifesa sarà lecita? Perché secondo alcuni giornali, per esempio La Stampa, i nostri militari, in altre parole, saranno autorizzati a sparare per reagire ad eventuali attacchi degli scafisti, è così, Presidente? Allora, quando si deve intervenire rispetto a un caos, non è che le cose siano semplici in partenza. Noi riusciamo finalmente a mettere un piede con l'accordo del governo libico, e d'altra parte questo governo libico è l'unica realtà riconosciuta dall'ONU. Noi poi non ci siamo fermati qui, perché siamo intervenuti anche stabilendo un rapporto con le tribù e le varie località. Ci sono stati incontri del Ministro degli Interni sia in Egitto sia in Italia per allargare il campo anche rispetto allo stesso governo Serraj, e il nostro ministro, il nostro ambasciatore, che è l'unico ambasciatore che sta sul campo, è andato a parlare anche col generale Haftar. In direzione del generale Haftar sono d'accordo che bisogna accentuare i movimenti, ma questo implica la ripresa di un rapporto con l'Egitto che è complicato dal fatto che noi siamo in rottura con l'Egitto sul caso Regeni. Bisognerà cercare di combinare la nostra richiesta di verità su questo con la ripresa però di un dialogo con una realtà che esercita un ruolo decisivo per quello che riguarda la Libia. Quanto ai nostri militari che intervengono lì, la Minotti ha detto una cosa in un certo senso ovvia, nel senso che noi non andiamo certamente lì a fare interventi armati. Qualora però fossimo, come dire, attaccati, è nelle regole di ingaggio dei militari quello di difenderci, quindi non si prospetta nessuna azione offensiva, si prospetta un'azione di appoggio alla guardia costiera libica che finora ha svolto un ruolo positivo, tant'è che noi registriamo una diminuzione dei migranti. Degli sbarchi, no? All'80%. Anche dal fatto che insomma si è aperto un rapporto più conflittuale con una parte delle ONG, ma quindi noi non andiamo a bombardare nessuno, non andiamo a sparare, mettiamo una clausola che è una clausola ovvia, che quando intervengono delle forze militari, queste se vengono attaccate è chiaro che si difendono, ma non c'è nessun risvolto, diciamo così, militarisco in questo, c'è un risvolto di una avvertenza ovvia, come dire, proprio a tutti i naviganti che devono rispettare le navi italiane che vanno lì, non a prevaricare nessuno, ma aiutare la Guardia Costiera Libica nel colpire questa realtà dei trafficanti che purtroppo allo stato attuale delle cose è la principale attività economica che caratterizza una parte della Libia. Ricordiamo poi quant'è successo questa mattina per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso: la Juventus della tedesca Jugend Rettet, che è praticamente una nave ONG, è stata fermata a Lampedusa, al largo di Lampedusa, dalla Guardia Costiera Italiana, che l'ha scortata fino al porto. Ricordiamo che questa nave di questa ONG tedesca non ha firmato l'intesa con il Viminale, e noi ne continuiamo a parlare subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare di migranti, continuiamo a parlare, ci sono molti sms al 349-238-6666, quanto mi faccio schifo come italiano impedendo la fuga e il soccorso, ci scrive un radioascoltatore. Intanto ci ha raggiunto Matteo Salvini della Lega, che ha votato no e voterà no a questo decreto del governo sul pattugliamento delle coste libiche. Chiediamo subito intanto perché, e poi se è soddisfatto della nave ONG bloccata a Lampedusa per controlli, ricordiamo, di una ONG tedesca che non aveva firmato l'accordo con il Viminale. Salvini. Buongiorno, grazie per l'invito, buon viaggio anche in macchina. Due riflessioni: sì, questa ONG tedesca ha detto che non vuole controlli a bordo, non vuole la polizia a bordo e non vuole fornire informazioni sugli scafisti. Ebbene, io non ti fermo a Lampedusa per dei controlli, ti sequestro la nave. Perché se non vuoi la polizia del mio paese a bordo, se non vuoi dirmi chi ti dà i soldi, se non vuoi darmi i nomi degli scafisti, non stai salvando delle persone, stai facendo del malaffare. E quindi evidentemente non sono soddisfatto se li controllano per due ore e poi ripartono. Un paese normale, con un governo normale, a fronte di una presa in giro di questo genere, ti blocca l'imbarcazione nel porto di Lampedusa. Lo dico all'ascoltatore di cui avete letto la SMS: stessimo aiutando donne e bambini in fuga dalla guerra, nessun problema. Il problema è che i numeri ci dicono che il 90% di chi ritiene di scappare dalla guerra viene riconosciuto come clandestino tout court. E il problema è che non si aiuta l'Africa svuotando l'Africa dei suoi ragazzi migliori, ma si aiuta l'Africa investendo là i soldi per garantire là un futuro a questi ragazzi. Votiamo sì, no. Ma la storia dell'aiutiamo a casa, aiutiamoli a casa loro, abbiamo visto, ci sono state anche delle critiche contro Matteo Renzi, insomma è sempre la famosa storia che poi non si fa mai. No, si possono usare i 4 miliardi e 600 milioni di euro che butteremo via come cittadini italiani quest'anno per mantenere in albergo 180.000 aspiranti profughi. Se intervistate qualunque missionario vero che lavora in Africa, vi dice che con gli stessi 4 miliardi noi non aiutiamo a stare in albergo per un annetto 180.000 presunti profughi, ma aiutiamo circa 5 milioni di bambini, scavando pozzi d'acqua, costruendo scuole e ospedali. Vabbè, aiutiamoli a casa loro. Un attimo, Salvini, perché intanto chiedo a Fabrizio Cicchitto e a Luca Frusone di aspettare, perché abbiamo anche in linea Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere. Che cosa ne pensa del fatto che questa nave ONG tedesca è stata bloccata a Lampedusa? Voi non avete firmato l'accordo e siete considerati un po' i leader delle ONG ribelli. No, ma assolutamente non siamo ONG ribelli, abbiamo ottemperato tutte le leggi in vigore finora marittime e sotto il controllo strettissimo della Guardia Costiera. Le devo chiedere se si riesce a spostare perché si sente un po' male. Ecco, prego. Dicevo appunto che il rapporto con la Guardia Costiera è stato ottimo finora, c'è stato un rispetto assolutamente preciso delle leggi. L'unico problema che abbiamo, che è grosso, è quello che non possiamo avere del personale di polizia giudiziaria armato a bordo. Noi finora abbiamo avuto moltissime volte delle visite della polizia, soprattutto all'attracco ai porti, senza alcun problema. Solo che questo per noi è un fattore importantissimo. Noi lavoriamo in 75 paesi da 46 anni e non abbiamo mai consentito a delle forze armate di entrare all'interno delle nostre strutture con le armi. Questo è un punto di non ritorno, quindi non commentiamo su quello che è successo oggi all'ONG tedesca perché non sappiamo ancora se effettivamente è una ricerca di documenti, è una situazione in cui si indaga, vedremo nelle prossime ore. Non crediamo alle ritorsioni, noi pensiamo che ci possa essere un sistema governativo, cioè portato avanti sotto l'egida del Ministero dell'Interno e della Guardia Costiera, e uno controllato ovviamente sia dal Ministero che dalla Guardia Costiera, ma che sia non governativo, che non dipenda necessariamente da uno sforzo governativo, soprattutto se non cambieranno queste regole, che ripeto, voglio dire 11 su 13 non abbiamo alcun problema, 2 l'abbiamo detto più volte, abbiamo una serie di problemi. Fabrizio Cicchitto, poi sentiremo anche su questo punto Luca Frusone e Matteo Salvini, ha detto Loris De Filippi, presidente di Medici. Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere, non possiamo accettare personale armato a bordo, poliziotti armati a bordo. Non abbiamo firmato il protocollo. Voglio dire. Si sono presentati molti problemi per quello che riguarda alcune ONG. Io ho una interpretazione totalmente diversa da quella di Salvini, perché nel senso c'è che quando c'è una fuga di massa non puoi la gente buttarla in mare. Però detto questo, noi abbiamo verificato che ci sono state una serie di forzature fatte da alcune ONG rispetto anche alla eccesso di vicinanza alle coste libiche e alcune cose non chiare per quello che riguarda, diciamo così, i rapporti con coloro che fanno questo lavoro di trafficanti. Adesso stabiliamo delle regole siccome l'Italia è in prima fila, le regole italiane vanno rispettate, anche perché ci stanno ONG che si portano i migranti soltanto nei porti italiani, e allora se fanno questo devono rispettare le regole italiane. Il ministro degli interni ha stabilito delle regole, non è che loro godono di una sorta di extraterritorialità, infatti alcune ONG l'hanno accettato. Devo dire francamente che noi riaffermiamo la nostra sovranità essendoci fatti carico più di altri paesi dell'Europa di questo nodo. Oggi è in discussione, c'è una nave tedesca, io domando, la Germania non è che sul terreno ha fatto un'operazione per quello che riguarda la Siria e così via, per quello che riguarda il resto diciamo così non è che ci ha dato una grande mano. E aggiungo anche che Francia, Spagna e così via, questi porti sono rimasti chiusi, per cui le ONG o fanno i conti con una nazione che hanno contribuito a riempire di migranti, oppure è evidente che si stabiliscono delle regole che non portano al sequestro delle navi, ma al blocco e al fatto che non hanno più una situazione di una sorta di extraterritorialità. Sembra che noi ci stiamo spendendo moltissimo su questo terreno, per cui reputo ingeneroso l'atteggiamento di alcune ONG, francamente. Allora, costretto a interrompere. Sì, no, no, noi la ringraziamo. Grazie Presidente, grazie Presidente Fabrizio Cicchitto, Commissione Affari Esteri della Camera. Allora, abbiamo sentito, insomma, la teoria di Cicchitto è salviamoli, oppure se le ONG le vogliono salvare, poi li portassero a casa loro a questo punto, cioè a casa delle ONG. Luca Frusone del Movimento 5 Stelle, condivide quello che è stato detto da Salvini o quello lì che è stato detto da Cicchitto? E poi Loris De Filippi ha detto chiaramente: noi di Medici Senza Frontiere non possiamo accettare militari armati a bordo. Che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle, tenendo conto che Di Maio fu il primo a denunciare una presunta collaborazione delle ONG con i trafficanti, poi smentita però dalla procura? Guardi, portarli a casa delle ONG credo che sia piuttosto impossibile, perché a parte alcune, quelle più grandi e quindi quelle più riconosciute, molte altre hanno delle bandiere fittizie, insomma. Quando abbiamo fatto quella indagine, quando abbiamo cercato di capire un pochino chi fossero queste ONG, abbiamo visto che molte hanno bandiere delle Barbados e di altre isole assurde, quindi pensare di partire dal Mediterraneo per arrivare fin lì a scaricare, a portare migranti è impossibile. Questa è una cosa che molto spesso si dice, che quando una nave salva una persona, quella è lo Stato e quindi andrebbe dublinato, diciamo, in un certo senso. Questo non esiste per il diritto del mare, quindi non possiamo pretendere questo dalle ONG, da qualsiasi nave che salva del mare. Quindi qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle? Guardi, noi, come abbiamo detto, già da prima avevamo chiesto, questo fa un po' ridere, perché quando abbiamo chiesto noi un codice di comportamento siamo stati attaccati da tutte le parti, è stata strumentalizzata l'uscita di Di Maio. Noi naturalmente non intendevamo dire che tutte le ONG hanno dei comportamenti particolari, ma alcune, e questo comunque la procura lo ha detto, hanno avuto dei comportamenti al limite del legale. Si parlava di trasponder staccati, si parlava anche di avvertimenti, di segnalamenti vicino alle acque libiche e tutto quanto. Quindi noi questo avevamo detto. Ora, fa ridere che quando abbiamo detto noi eravamo appunto razzisti, eravamo contro l'ONG, ora che lo fa Minniti invece viene un po' sollevato a salvatore della patria. Per quanto riguarda ad esempio Medici Senza Frontiere, loro hanno un codice di comportamento, io lo capisco, e anzi questa storia di non avere persone armate nei loro ospedali, in un certo, diventa una cosa di buon senso, non è qualcosa di sbagliato. Per quanto riguarda le navi, io dico che potrebbero cambiare tutto questo, perché non è un discorso di non fidarsi delle ONG. Quando noi chiediamo ad esempio delle autorità giudiziarie sulle navi delle ONG, è perché diventa importante anche nei primi momenti avere un'autorità giudiziaria che possa iniziare da subito le indagini per capire se c'è qualche scafista a bordo. Questo noi chiediamo, non stiamo lì a chiedere all'autorità giudiziaria di controllare le ONG, ma a chiedere di iniziare da subito le indagini per fermare gli scafisti, perché con la missione Sofia gli scafisti non sono usciti più dalle acque libiche, lo sappiamo tutti ormai, partono direttamente da terra, perché da Lampedusa, scendendo per cacciare sempre questi scafisti, le navi militari si sono schiacciate sulle acque territoriali libiche. E loro quindi non vanno più in mare con delle sì, navi madri. Sì, diciamo questo per evitare quei naufragi che abbiamo visto, dove muoiono persone innocenti, perché ricordiamo che sono sempre persone e che fuggono dalla guerra. Intanto ci sono degli aggiornamenti. Dalla nave dell'ONG tedesca di Lampedusa sono stati fatti scendere due siriani, che sono stati poi accompagnati al centro prima accoglienza dell'isola. I due migranti erano stati trasferiti in precedenza a bordo della nave ONG tedesca proprio da una delle unità militari italiane impegnate nelle operazioni di soccorso ai migranti nel Mediterraneo, e il tenente di vascello Paolo Monaco ha detto che si tratta di un normale controllo. Ecco Salvini, quindi qui c'è una situazione un po' ancora diversa, però c'è questa notizia comunque che si cominciano a controllare le ONG e quello che fanno nel Mediterraneo. E perché voi voterete no a questa missione? Questo non riesco a capire. Non siete convinti che pattugliare le coste libiche poi possa prevenire gli sbarchi? Con due navi? Cioè lei è convinta che usando due navi si pattugliano le coste? No, però insomma già è un segnale, dai. No? Ma sì, gli posso mandare anche una mongolfiera o un aquilone. Se il ministro Pinotti dice che non ci sarà nessun blocco navale, che non ci sarà nessun fermo, nessun respingimento e al massimo i nostri militari, se aggrediti, si potranno difendere, siamo alla fiera delle banalità. Mi permetta di correggere il signor Cicchitto, che ha detto una cosa veramente sgradevole, facendo presupporre che io vorrei buttare a mare qualcuno, e mi sarebbe piaciuto che qualcuno gliel'avesse fatto presente. Nessuno vuole buttare a mare nessuno. Semplicemente io ritengo che 700.000 immigrati sbarcati, 15.000 morti sul fondo del Mar Mediterraneo, episodi di cronaca nera quotidiani di questi presunti profughi, lo stupro di una 75enne in provincia di Bari, il vigile col tentato omicidio a Firenze, autisti e controllori aggrediti quotidianamente, la stazione di Milano e la stazione di Roma che sono un bivacco di gente che non scappa dalla guerra, ce lo diciamo sottovoce. Questi sono ventenni e trentenni col telefonino, col cappellino, con le scarpe da tennis, che pesano più di me, sono in forma più di me, che non scappano da nessuna guerra. Semplicemente stanno qua un anno e mezzo a campeggiare a spese degli italiani. E questo mi innervosisce. Come mi indispettisce il fatto che una ONG che scarica migliaia di esseri umani sul nostro territorio non voglia a bordo polizia giudiziaria armata, e se non li vuoi a bordo allora lavori con qualcun altro che non sia l'Italia, permettimi, se abbiamo delle regole. E quindi noi cosa votiamo? Una missione dove si dà il via a due navi che fanno avanti e indietro senza bloccare nessuno, senza respingere nessuno? Ragazzi, sono passati i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. A Bruxelles abbiamo chiesto decine di volte di fare qualcosa ed è tre anni che se ne fregano. Ripeto, 700.000 sbarchi con un numero di profughi di guerra veri che non supera il 10% dei casi all'esame delle commissioni. Questa è un'invasione organizzata e finanziata per avere nuova manodopera da sfruttare a basso costo per abbassare i diritti e gli stipendi dei lavoratori italiani e immigrati regolari. I primi danneggiati sono gli immigrati regolarmente presenti in Italia, che rischiano di essere messi nello stesso calderone. Quindi non vedo l'ora di andare al governo, senza bacchette magiche, per limitare questo flusso ormai incontrollabile e per intervenire in Nigeria, in Guinea e in Bangladesh, perché io ricordo a chi ci ascolta che le prime tre nazioni per esportazione di esseri umani e di nuovi schiavi quest'anno in Italia sono Nigeria, Bangladesh e Guinea. Perfetto. Poi Bangladesh è dall'altra parte del mondo. Perché uno deve partire dal Bangladesh per arrivare in albergo via Tripoli. A Roma? Via Tripoli. Però questa è la sua tesi. Io poi la invito a stare di nuovo ancora con noi, perché le chiederò anche sulle alleanze. Lei ieri si è proposto come leader del centrodestra, ma prima voglio sentire Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere. Insomma, ci sono delle accuse, anche i nostri radioascoltatori mi accusano, questi africani non scappano da nessuna guerra e disinformazione. Insomma, forse non scappano tutti dalla guerra, sicuramente scappano tutti dalla miseria, però come dice Salvini, poi ci sta miseria anche in Italia, insomma, c'è povertà anche in Italia. Loris De Filippi, che cosa risponde a Matteo Salvini e a Luca Frusone del Movimento 5 Stelle? Beh, prima di tutto a Salvini rispondo che l'anno scorso il 60% di persone in seconda istanza, cioè dopo aver fatto una prima richiesta, è stata respinta, hanno avuto l'opportunità di richiedere per seconda istanza una protezione umanitaria, l'hanno ottenuta al 60%. Quindi al di là del fatto che ci sia solo un 10% di appunto status di rifugiato, c'è stato un 60% di persone a cui è stata riconosciuta la protezione umanitaria, quindi la necessità di difenderli da una situazione difficile da cui sono scappati. Quindi questo è il primo dato importante. Il secondo è che spesso si confonde l'azione umanitaria con l'azione politica. Le organizzazioni non governative non devono in nessun modo fare sistema con il governo che ha un'agenda politica molto chiara, che è in questo caso gestire i flussi al di fuori dell'Italia, cioè gestire i flussi in Libia, che ricordo non è necessariamente un paese sicuro un paese che in questo momento vive una fase democratica tranquilla della sua esistenza, ma vive una situazione molto difficile con delle violazioni costanti dei diritti dell'uomo all'interno dei centri. Non solo, il Tribunale Penale Internazionale sta indagando sulla Guardia Costiera Libica per una serie di violazioni, quindi questo è il dato di fatto. L'altra cosa importante che mi preme a dire è che Medici Senza Frontiere, per esempio, ieri ha partecipato a una situazione molto, molto difficile nel Mar Mediterraneo centrale, con 500 persone che sono state tratte in salvo da un'imbarcazione commerciale. Queste persone sono state poi depositate su un'altra imbarcazione di un ONG, la Proactiva, e Medici Senza Frontiere ha preso in carico 8 cadaveri, quindi 8 persone che sono morte purtroppo durante appunto questo naufragio, e in questo momento sono a bordo dell'imbarcazione Aquarius. Quindi noi ci siamo presentati in maniera molto chiara sempre dal 2015 facendo un lavoro di vicariamento, perché l'Unione Europea ha deciso che l'esperienza di Mare Nostrum non andava fatta, e quindi le persone venivano lasciate un po' a loro stesse. Per questo motivo siamo scesi in campo, anzi in mare, e ovviamente siamo pronti a sospendere qualsiasi tipo di attività se ci sarà un'attività congrua di ricerca e soccorso in mare che impedisca, per esempio come è successo l'anno scorso, la morte di 5.000 persone. Perché ricordiamolo, prima di tutto, prima di questo codice di condotto, prima di qualsiasi altra cosa, le persone vanno salvate. Ora, o si trova una pacificazione all'interno della Libia, si trovano a monte ancora dei sistemi per aiutare le persone affinché non arrivino qui, o altrimenti non finirà questa emorragia, e non saranno sicuramente delle imbarcazioni della Marina Militare Italiana a impedire questo arrivo. Purtroppo. Un'ultima domanda: che cosa farete riguardo a questa ONG tedesca? Vi informerete, farete squadra, insomma, continuerete a dire di no però a questo codice di regolamento, a quanto ho capito? Continuiamo a sperare nel buon senso. Per esempio, il discorso dei trasbordi deve essere eliminato, è una follia. Ieri l'ha dimostrato la Marina Militare, che ha trasbordato delle persone a bordo di un'altra imbarcazione, l'ha dimostrato la barca commerciale che ha dovuto dare le 500 persone a un'altra organizzazione. I trasbordi sono un'assurdità e ma secondo me vanno tolti da questo codice. Questo fatto che però il porto più sicuro potrebbe non essere quello più vicino, come la vedete? Benissimo, a patto che appunto il paese sia un paese che possa accogliere le persone, noi non abbiamo nessun problema. Va ricordato finora all'onorevole Cicchito, a Salvini, a tutti, che finora noi non abbiamo preso nessuna decisione di portare le persone in Italia. Questo va detto chiaramente. Noi abbiamo ottemperato alle decisioni che il coordinamento dei soccorsi, che è basato a Roma, della Guardia Costiera, ci ha detto di fare, in pieno accordo col Ministero dell'Interno, che ha deciso quali porti erano quelli migliori per sbarcare, per avere l'opportunità di portare poi le persone via. Quindi le ONG non hanno deciso nulla, cioè non è che decide uno fa il soccorso oggi li porto ad Augusta, non è così. Loris De Filippi, grazie. Presidente di Medici Senza Frontiere, Matteo Salvini, abbiamo sentito una bella replica, però intanto le voglio fare una domanda. Lei si è candidato al leader del centrodestra, molte però questioni sembrano sempre più unire la Lega col Movimento 5 Stelle e si parla sempre di un'alleanza post-elettorale. No, guardi, l'obiettivo è di trasferire a livello nazionale la buona esperienza di governo che da 20 anni portiamo avanti in Lombardia e in Veneto col centrodestra. Sono le due regioni più apprezzate dai cittadini per la qualità dei servizi, della sanità, per il basso costo della politica, del dipendente pubblico. Quindi se da 20 anni Lombardia e Veneto ci premiano, vorremmo esportare anche in tutto il resto d'Italia quello che è questo modello di buon governo. 5 Stelle possiamo fare alcune battaglie comuni sull'immigrazione, sulle tasse, sui vitalizi, come stiamo facendo in queste settimane sia alla Camera che al Senato, sul cambiare l'Europa, però laddove governano, penso a Roma, penso a Torino, non stanno dando esattamente esempio di ottima amministrazione. Io ci tengo a dire che non ho nulla contro le ONG, il mio problema non sono le ONG o neanche coloro che sbarcano, il mio problema è la complicità del governo italiano e dell'Unione Europea. Lo diceva bene il rappresentante dei Medici Senza Frontiere, è il governo che organizza tutto, che dà indicazioni di dove far sbarcare, di dove sistemare, che tramite i prefetti ne smista un po' in agriturismo a Piacenza, un po' in mezzo alla Sardegna, un po' in montagna in Valtellina, Io ce l'ho col governo italiano e con l'Unione Europea che stanno finanziando e organizzando da 3 anni un chiaro ed evidente tentativo di sostituzione etnica di manodopera a basso costo a centinaia di migliaia di soggetti. Ma magari non la metterei proprio così, però lei quindi mi dice. Io la metto così. Vabbè, certo. Lei quindi mi dice che è pronta a candidarsi come leader del centrodestra. Sì, abbiamo un programma ben chiaro in testa. E come farà? Superamento della legge Fornero, cancellazione degli studi di settore, redditometri, spesometri, accertamenti, invii trimestrali di fatture. Sì, sì, ma lei come farà con Forza Italia, prima di tutto a convincere Berlusconi? Perché... Ma Berlusconi l'ha detto, io accetto la sua sfida, sarà leader chi prenderà un voto in più in cabina elettorale da parte degli italiani, quindi decideranno gli italiani se prende un voto in più nel centrodestra, Salvini o Berlusconi. Luca Frusone del Movimento 5 Stelle che è stato con noi, e voi continuate a ribadire la tesi che non vi allerete con nessuno, però molte battaglie con la Lega alla fine convergono, quelle tra Movimento 5 Stelle e Lega, no? Luca Frusone forse è caduto. Allora, Salvini, però io le voglio chiedere una cosa. Oggi Forza Italia dirà ok a questa missione, quindi comunque c'è una divisione politica. Sicuramente sì. Sicuramente sì, Forza Italia ha votato col PD salvabanche, ha votato in Europa il finanziamento delle missioni che secondo noi, anzi secondo i numeri, aiutano gli scafisti, quindi è chiaro che nel programma quelli che sono i problemi dovranno essere evidenziati. Sulla flat tax, sulla tassa unica che noi abbiamo studiato e documentato al 15%, come anche il Sole 24 Ore meritoriamente ha riconosciuto, Berlusconi non può dire 25, 22, 20, 21, certo. No, siamo alla tombola, quindi il programma va definito prima per serietà nei confronti degli italiani, perché non voglio ricommettere gli errori del centrodestra del passato che diventava l'arca di Noè con Alfano, Verdini, Cicchitto, Casini. Insomma, vabbè, perfetto, abbiamo capito. Salvini, Luca Frusone, siamo in chiusura, per cui rapidissimo, Movimento 5 Stelle, voi continuate a dire no a qualunque alleanza prima del voto, post voto, giusto? Sì, guardi, noi rimaniamo su questa linea, poi come diceva lei prima, ci sono alcune battaglie che noi facciamo magari alcune volte con la Lega e altre volte con chi, insomma, noi l'abbiamo sempre detto, prima vengono le idee, poi vengono i partiti e le ideologie. Se un'idea è giusta, non è né di destra né di sinistra. Chiedere per esempio maggiore chiarezza sulle missioni, chiedere un maggiore dialogo da parte del governo con tutte le forze in campo in Libia, per fare un esempio, non è un discorso di fare alleanze con la Lega o con chi che sia, è semplicemente buonsenso. Ad esempio sulla flat tax che ha appena detto Matteo Salvini, noi non siamo d'accordo perché è una misura in realtà inventata da Milton Friedman che addirittura ci riporta a quel neoliberismo che invece oggi regna in Europa e che noi vogliamo contrastare. Quindi ci sono alcuni aspetti in cui ci vediamo anche questi aspetti in altre forze politiche, ma proprio per questo motivo, essendo un po' poliedrici, diciamo così, noi abbiamo il nostro programma, chi vuole sposare il nostro programma è ben accetto nei singoli punti, ma non vi siete spostati a parlare di alleanze come al solito è esagerato. Non vi siete spostati un po' a destra, perché è sembrato questo, che prima non eravate né di destra né di sinistra, almeno Matteo Salvini dice vorrei essere il leader del centrodestra, invece voi c'è sempre un po' di confusione. Guardi, c'è una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle? No, non c'è una spaccatura, perché dipende dai temi che si trattano. Oggi il tema mainstream magari è l'immigrazione e allora qualcuno ci etichetta di destra. Se domani, speriamo, sarà il reddito di cittadinanza, allora ecco qualcuno che ci dirà che siamo comunisti perché vogliamo una ridistribuzione del reddito. Quindi dipende anche da quello che... Ha sentito, Salvini ha accusato, Torino e Roma non stanno andando bene, la Raggi rischia di perdere un altro assessore. Cioè, non credo che rischi di perdere un altro assessore, il problema è che noi abbiamo ereditato la città più... una città distrutta come quella di Roma, anche Torino che sembrava gestita bene, in realtà abbiamo visto che nei conti del bilancio non era così. Va bene, insomma, è colpa delle precedenti amministrazioni per Luca Frusone. Grazie a Matteo Salvini, grazie a Luca Frusone. Noi diamo la linea al giornale radio e ci risentiamo tra poco con l'emergenza caldo. Ma cos'è quest'estate? perderti fu facile, fu veloce, ha reso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chi è? L'estate è tornata e c'è anche l'estate sul nostro giornale Il Sole 24 Ore, perché ogni giorno per tutto agosto ci sarà l'agenda del professionista. Quindi fino al primo settembre sul Sole 24 Ore, ogni giorno dal lunedì al venerdì arriva l'agenda del professionista, con l'obiettivo di fare un po' d'ordine fra novità legislative che hanno peso molto rilevante già da queste settimane e sono ancora più importanti dopo la pausa estiva. Fisco, lavoro e giustizia, regole che pesano sulla vita familiare, verranno dunque prese in esame, approfondite e analizzate per aiutare nel lavoro e nella vita quotidiana. Ricordiamo quindi questa iniziativa del nostro giornale Il Sole 24 Ore proprio per l'estate. D'estate vogliamo parlare soprattutto di caldo record, di bollino rosso. Lucifero è con noi. Si parla di clima, si parla di temperature record, di temperature all'ombra, al sole e di temperature percepite. Insomma, un po' di confusione c'è e un'estate comunque particolarmente calda. Luca Mercalli, climatologo, che cosa sta succedendo nel nostro paese, ma anche sulla terra, perché questo caldo è difficile ricordarlo così per tanto tempo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, siamo sotto la cappa di questo anticiclone africano, quindi dell'aria che da sud si rigonfia sul Mediterraneo e invade buona parte dell'Europa centrale, arriva praticamente fino al Baltico, portando l'ondata di calore non solo in Italia, ma anche sui Balcani, in Polonia, in Ungheria. E si tratta di temperature che già ieri hanno raggiunto in molte zone d'Italia i 40 gradi, abbiamo avuto 42 gradi ad Alghero, che è un valore record, circa 38-39 gradi a Roma e Firenze, e il massimo della calura è atteso tra domani e sabato, quindi dovrebbero ancora salire di qualche grado. Temperature anche notturne elevate attorno ai 23-25 gradi, che sono poi quelle che acuiscono il disagio, perché di notte non si riescono a rinfrescare le case, consumi energetici alle stelle, perché chi ha la fortuna di avere il condizionatore ovviamente lo mette a manetta. Quindi si tratta ormai di un fenomeno che si sta verificando con maggiore frequenza. Abbiamo un po' debuttato con questo tipo di estati roventi inedite per l'Italia e soprattutto per il nord Italia nel 2003. L'estate del 2003, nel suo pacchetto di tre mesi, giugno, luglio e agosto, rimane per ora il record imbattuto e probabilmente non verrà superata neanche quest'anno. Ma abbiamo ragionevoli idee, insomma, di raggiungere la terza o quarta posizione, a secondo di come questo mese di agosto si concluderà. Quindi sarà probabilmente la terza estate più calda della storia. In mezzo, tra 2003 e 2017, ci sarà 2012 e 2015, che sono state, vedete, tutte estati recenti, a riprova che è proprio cambiata la struttura della circolazione atmosferica in questi ultimi anni, in accordo con quello che succede nel mondo, dove anche le ondate di calore in tanti altri paesi sono diventate molto più frequenti e con valori straordinari, inediti per la climatologia locale. Quindi lei ci sta dicendo che comunque chiaramente l'effetto serra a provocare queste estati così calde, così torride per lungo periodo, giusto? Sì, ci sono ormai decine di lavori scientifici che sono stati prodotti, soprattutto proprio dopo l'ondata di caldo del 2003, che verificano, facendo delle simulazioni al computer a posteriori, come la probabilità di accadimento di queste estati così calde sarebbe stata bassissima, per non dire nulla, se non ci fosse stato l'aumento dell'effetto serra dovuto alle emissioni della combustione dei materiali fossili. Quindi direi che questo è il segnale più evidente del cambiamento climatico, mentre quando parliamo di piogge, di alluvioni è tutto molto più complicato e non c'è un segnale diretto evidente in tutti i fenomeni. Invece sull'aumento della temperatura direi che i dubbi non ci sono più. Questa frequenza maggiore di ondate di calore appartiene proprio al sintomo principale del riscaldamento globale. Ecco, ma non si rischia con i condizionatori poi di aumentare l'effetto serra e quindi di aumentare il calore e siamo sempre in un cane che si morde la coda? Purtroppo sì, ma ormai è inevitabile che se si vuole un po' di comfort il condizionatore lo si usi. Cerchiamo di usarlo bene, intanto con dei provvedimenti strutturali nelle abitazioni e negli edifici, quindi bisogna isolare bene le case per non disperdere poi questo prezioso freddo. E dopo gli impianti oggi sono anche migliorati, hanno delle maggiori efficienze, cerchiamo di usare per esempio energia rinnovabile per alimentarli. Personalmente vivo in una casa che ha un impianto di raffrescamento, ma è alimentato con i pannelli fotovoltaici. E visto che in genere fa molto caldo nelle ore centrali della giornata, quando c'è più sole, l'impianto è perfettamente in fase, consuma ciò che produce sul tetto. E non inquina. Mauro Tonello, presidente della Coldiretti Emilia Romagna, ecco, uno degli effetti terribili del caldo è la siccità e quindi quello che poi provoca sulla nostra agricoltura. Com'è la situazione quest'estate? Ma diciamo, l'estate sicuramente porta con sé un calore straordinario, temperature che durano da tempo, ma soprattutto stiamo pagando il fatto che quest'inverno sia stato particolarmente siccitoso e privo di neve e quindi le nostre scorte di acqua si sono affievolite, oltre alle temperature, quindi l'abbassamento delle falde che contribuisce a ingrandire ancora di più il problema della siccità. È chiaro che siamo di fronte a eventi che ormai diventano abbastanza strutturali, non è più un caso avere un'annata troppo calda o poco piovosa, però il nostro è un paese dove ancora piove molto e quindi trattasi di mettere in moto dei meccanismi che purtroppo segnano già per il nostro paese un ritardo di oltre 10 anni, dove però devono essere recuperate tutte quelle possibilità di invasi, cave, casse di espansione, tutte quelle che ci possono dare delle possibilità di trattenere acqua quando c'è, perché è un bene, oggi lo tocchiamo con mano, probabilmente il cittadino di Roma oggi ha toccato un po' più con mano, no, la preoccupazione di rimanere senza acqua, il classico gesto di aprire il rubinetto il mattino, tutti siamo abituati ad aprirlo, viene l'acqua e ci sembra la cosa più naturale del mondo, possiamo fare tutti i provvedimenti che vogliamo, ma ribadio, se l'acqua non c'è, da quel rubinetto non uscirà, e quindi vanno messe in moto tutte quelle operazioni che ci possono far trattenere questo bene prezioso dell'acqua, sia per l'agricoltura ovviamente che per le abitazioni civili, perché dobbiamo prepararci a quello che evidentemente questo ci porta a questo cambio, diciamo, di clima. Quindi preservare l'acqua, ne abbiamo parlato anche lunedì, abbiamo parlato anche dei nuovi strumenti che sono proprio prendere l'acqua dal mare, levare il sale e poterla riutilizzare. Lo stanno studiando al Centro Biomedico di Roma. Laura Baldassarre, assessore alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. Buongiorno. Roma Buongiorno. Ha un piano anziani perché è un piano caldo. Quando c'è una temperatura anche con punte di 49 gradi, come abbiamo visto, di 50 gradi in città, soffre di più chi è anziano e chi ha fissa dimora. Che cosa sta facendo il Comune di Roma a questo proposito? Beh, innanzitutto parlando di piano caldo e non di emergenza caldo, quindi cercando di avere delle azioni che siano permanenti, in particolare, come ricordava, per gli anziani e per i senza dimora, che sono i più fragili. Noi siamo partiti il 21 giugno, da una parte con una campagna di comunicazione, perché è molto importante informare i cittadini e le cittadine, e quindi con delle regole, diciamo, che sono date appunto sulla base dell'evidenza scientifica, come dire appunto di uscire di casa nelle ore meno calde, evitare di farlo, e, di idratarsi e bere molto, bagnare il viso, le braccia, i polsi, conservare a fresco i farmaci, questo è molto importante soprattutto per gli anziani, rinfrescare gli ambienti e ridurre l'attività fisica, questo lo diciamo perché sono delle regole fondamentali per la prevenzione. Poi abbiamo tutta una serie di servizi che abbiamo quest'anno incrementato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, che sono tutti servizi gratuiti che possono essere attivati tramite la sala operativa sociale di Roma Capitale, e do il numero che è 800 44 0022. Sono dei servizi che vanno appunto dai posti giornalieri ai servizi mensa sociale, il dolce, accoglienza. È molto importante ricordare che in questo momento possiamo fare la nostra parte nei confronti dei più fragili, quindi se vediamo persone in difficoltà dobbiamo chiamare questo numero, che appunto perché è un numero che permette di attivare una rete a sostegno delle persone più fragili. Quindi ci siamo rivolti in particolare agli anziani, e c'è anche un'attività di comunicazione che facciamo con la trasmissione del bollettino delle ondate di calore, che in questi giorni in particolare è molto importante in tutte le case di riposo, i centri Alzheimer, tutti i servizi attivati dall'azienda farmaca. E poi c'è anche un'azione che facciamo per lo svago e per gli anziani, c'è un'oasi che abbiamo attivato per 50 anziani, e è importante perché è un luogo dove c'è una piscina, c'è un parco, e insomma dove loro possono appunto passare la giornata, chi appunto, e tanti sono quelli che rimangono a Roma in questo periodo. Quindi anche una piscina per gli anziani, questo è il Comune di Roma, resti con noi assessore. Andiamo subito invece al Comune di Milano, all'assessore alle politiche sociali e cultura della salute, Pierfrancesco Maiorino. Buongiorno, cosa fa il Comune di Milano per gli anziani, per i senza tetto, per contrastare questa ondata di caldo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma intanto noi sviluppiamo azioni continuative lungo tutto l'anno e le intensifichiamo nel periodo estivo. Ci rivolgiamo a persone anziane, persone fragili, persone con disabilità che rischiano a volte di essere in condizioni particolarmente difficili in una fase nella quale aumentano le temperature, ma soprattutto le città si svuotano, anche la nostra città in alcuni quartieri progressivamente un po' si svuota, quindi vi è questo tema che non è solo un tema, diciamo, legato al caldo quanto alla solitudine, alla necessità di non lasciare sole le persone. In quest'ottica c'è una centrale operativa a cui fa riferimento un numero verde, che ricordo anch'io, 800 777 888, e abbiamo erogato sin qui oltre 3.800 prestazioni che riguardano la cura ambientale, gli interventi sulla persona, la consegna dei pasti a domicilio. È presente una rete di centinaia di volontari che animano 29 centri socio-ricreativi per anziani, nonché sviluppano varie attività. Diciamo che tutto questo è poi ovviamente legato ai servizi di pronto intervento in campo medico-sanitario, nel senso che i nostri operatori, il nostro numero verde, che si occupa più, diciamo, del versante sociale, quindi della consegna dei pasti, delle azioni di questo tipo, ovviamente sono poi in contatto con chi deve intervenire nel caso, diciamo, medico della salute. È un'azione che prosegue, ovviamente in questi giorni si sta intensificando il lavoro in ragione proprio delle temperature che aumentano e di un po' di milanesi che vanno in vacanza. Luca Mercalli, abbiamo sentito i due assessori che sono all'azione per sconfiggere un po' il nemico che è il caldo per gli anziani e per chi è senza tetto. Che cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto quando è che arriverà un po' di fresco? Perché è da metà giugno, anzi dall'inizio di giugno, che insomma si è attenuato leggermente andando sui 30 gradi, ecco, però abbiamo sempre superato abbondantemente i 30 gradi. Il fresco direi per il momento non lo vediamo, ecco. Diciamo che avremo un'attenuazione del caldo a partire da lunedì, quindi giornate ancora roventi fino a sabato, domenica 6 agosto, a partire dal 7 c'è un cedimento di questa struttura anticiclonica africana, arrivano nuovamente delle correnti atlantiche e quindi le temperature dovrebbero scendere a valori più normali per il periodo. Vorrei precisare anche alcune differenze di interpretazione, perché ho sentito citare le temperature percepite rispetto a quelle reali. Allora, quando sentiamo dire temperature prossime ai 50 gradi o superiori, sono quasi sempre delle temperature percepite, cioè derivanti dalla combinazione tra caldo e umidità, perché quello che ci fa soffrire molto è soprattutto l'elevata umidità relativa dell'aria. Quando l'aria è molto umida e calda, il nostro corpo, pur sudando, non riesce a raffreddarsi, perché il sudore evapora male, quindi non c'è questo assorbimento di energia dell'evaporazione sulla nostra pelle. Quindi continuiamo a sudare, ma il corpo non si raffredda e si può arrivare quindi all'ipertermia e al colpo di calore. In genere, avere temperature anche elevate, ma con umidità molto bassa, come accade nei deserti, permette di sopportare molto meglio il caldo, soprattutto se ci si ripara all'ombra. Invece, se l'umidità è alta, ombra o sole, fa sempre caldo. Ecco, infatti se si va in Asia il tasso di umidità è molto alto, no? Quindi la temperatura percepita, per esempio, in Cina o in Vietnam è sicuramente maggiore che in Italia. Come siamo messi in Italia? Un po' tra il deserto e l'Asia come zona, come umidità? Ma finché l'umidità è elevata, questo da un certo punto di vista è anche un bene, perché vuol dire che non abbiamo condizioni che facciano completamente cambiare volto al paesaggio forestale e agricolo, perché se avessimo solo il caldo ma non l'umidità ci trasformeremmo in un deserto. L'umidità dell'aria almeno preserva ancora nelle zone così battute dal solleone una certa vegetazione, ed è la pianura padana in particolare la zona dove però noi stiamo peggio in termini fisiologici, perché di umidità nell'aria ce n'è molta, c'è poca ventilazione. La pianura padana, come sempre sappiamo, sia d'inverno con l'accumulo dell'inquinamento e d'estate per l'umidità e il caldo, è un po' la zona più esposta a condizioni molto simili a quelle asiatiche. Quindi città come Ferrara, come Ravenna, in questo periodo hanno delle condizioni molto simili a quelle che troveremo in India. Marco Tonello, presidente della Coldiretti Emilia-Romagna e vicepresidente nazionale Coldiretti. Luca Mercalli ha detto che avete delle condizioni come si possono trovare in India in questo periodo. Lei lo conferma? E quali sono comunque, se parliamo di numeri, i danni che fino a questo momento avete registrato sull'agricoltura? Purtroppo sì, il clima tende ad assomigliare molto a climi asiatici, molto umido, molto caldo, quindi il percepito e il fastidio è notevole. I danni purtroppo montano a delle cifre ormai spaventose, perché siamo oltre già i 2 miliardi di danni diffusi un po' su tutta la penisola, un po' su tutte le colture, perché ovviamente mancando proprio quella falda a cui facevo riferimento prima, quindi l'abbassamento proprio di queste falde comporta che sia dalle piante da frutta fino ad arrivare a mais, soia, soffrono tantissimo. Va ricordato, secondo me, quello che erroneamente la gente magari pensa che sia un consumo di acqua fuori luogo, che sono per esempio le risaie, che invece costituiscono un grande bacino in Italia, oltre 200.000 ettari, di trattenimento di acque che altrimenti sarebbero già andate da mesi a finire in mare e nessuno più le utilizzerebbe. Le risaie invece svolgono un grande ruolo calmieratore, perché di fatto vengono trattenute e rilasciate in tempi diversi e quindi contribuiscono a far sì che ci sia un forte rallentamento dell'acqua, oltre ad una fitodepurazione naturale nel terreno molto importante, perché si rilascia acqua sempre più pulita anche dai nostri terreni. Quindi bisognerebbe aumentare la coltivazione del riso in Italia? Diciamo che sicuramente sono bacini molto importanti non costituiscono oltretutto nessun pericolo, anzi costituiscono un habitat favorevolissimo anche alla fauna selvatica, per cui sicuramente nelle zone dove si può anche aumentare le superfici risicole costituiscono comunque un grande beneficio per l'ambiente. Pensiamo a tutta l'area litorale dove per esempio le risaie contribuiscono a far sì che la subsidenza, che è il calo del terreno quando viene a mancare l'acqua, quindi il nostro terreno continua a calare. Io abito in una zona che è a meno 4 metri sotto il livello del mare, e quindi tutti gli anni calderebbe, proprio le risaie sono quelle che contribuiscono a far sì che questo calo del terreno sia il minimo possibile, proprio perché esiste un bacino di acqua importante come questo che ne detiene di fatto un po' sollevato questo terreno. E quindi ecco, va informata bene anche la gente, a volte sento dire c'è uno spreco dell'acqua, in realtà io lo considero un utilizzo molto importante per far vivere territorio, ambiente, ed è acqua che in alcune zone, se lasciata andare, andrebbe solamente in mare, certo, ad ingrandire il problema dell'innalzamento anche dei mari. Chi è ciliaco sarà contento di aver sentito che il riso poi non fa bene solo alla ciliachia, ma anche a proteggere l'ambiente. Ringraziamo Mauro Tonello, presidente Coldiretti Emilia Romagna e vicepresidente nazionale Coldiretti, Laura Baldassarre, assessore alla persona, scuola e comunità solidali di Roma Capitale. Insomma, siete però soddisfatti che sia arginato il pericolo di razionamento d'acqua a Roma? Assolutamente sì, anche se secondo me è molto importante ricordare che noi tutti possiamo quotidianamente, diciamo, con dei piccoli accorgimenti, trattare questo bene come un bene prezioso realmente, così come lei sa, la CEA sta adesso investendo tantissimo sulla parte infrastrutturale, perché dobbiamo evitare gli sprechi, quindi noi dobbiamo fare delle azioni di sistema per scongiurare nel tempo questo tipo di situazioni. Basta che non litigate però, perché so che un altro assessore potrebbe lasciare. No, non la voglio fare intervenire su cose politiche, però... Non c'è, guardi, nessun litigio, lei lo sa meglio di me, fa questo mestiere, le ricostruzioni poi mediatiche sono altre dalla realtà, noi stiamo continuando, come stanno facendo tutti i miei colleghi tutti i giorni, a lavorare per questa città, perché c'è molto da fare. Grazie assessore Laura Baldassarre, alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali. Mi dicono che Francesco Maiorino è caduta la linea, allora io a questo punto mi fermerei per dare la linea alla regia e per continuare a parlare di caldo subito dopo. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Ma cos'è quest'estate? Dove sei? L'estate comincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro. Segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Deviamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toia Pampora. E ricordiamo i vostri sms 349-238-6666, ma anche se volete intervenire sull'emergenza caldo per segnalarci disagi oppure quello che è la vostra impressione, 800-24-0024. C'è un radioascoltatore che ha mandato un sms molto divertente, dice: perfetto, quando inizio le ferie finirà il caldo e magari iniziano pure i temporali. E mannaggia, Luca Mercalli. Insomma, abbiamo sentito invece il parere del vicepresidente della Coldiretti, che dice: è importante coltivare il riso. È così? Non sapevamo di questa proprietà del riso anche come equilibratore biologico. Sono d'accordo sul fatto che tanto quest'acqua che proviene dalle Alpi con la fusione della neve sarebbe rapidamente andata in Adriatico, e quindi se sosta qualche settimana in più nelle risaie viene utilizzata per la coltivazione e abbassa un pochino la temperatura locale con l'evaporazione, quindi va benissimo. Ovviamente il riso non si può coltivare dappertutto, ci vuole anche una tipologia di suoli adatti e ovviamente una elevata disponibilità di acqua, che in quella zona del Vercellese, della provincia di Pavia e di Novara, per fortuna storicamente. Per ora c'è, vedremo poi in futuro, perché il problema è che il manto nevoso sta fondendo con sempre maggior anticipo. Il caldo comincia già dalla metà di maggio e quindi la neve se ne va via con circa 15 giorni di anticipo rispetto a tempi passati. Questo vuol dire che poi si rimane senza acqua proprio nel periodo cruciale dei mesi estivi, quando fa più caldo e quando serve di più. Ma possiamo rassicurare il nostro radioascoltatore che anche nella la prossima settimana comunque il caldo durerà, non ci sarà afa, però ci sarà bel tempo? Beh, allora, intanto appunto bel tempo vede che è molto soggettivo. Per un agricoltore o per qualcuno che asfalta le strade questo non è un bel tempo, un tempo pessimo, un tempo che crea un sacco di problemi. Forse per uno che sta tranquillamente al mare in spiaggia a fare ferie è bel tempo, quindi cerchiamo anche di relativizzare le definizioni per mantenere la priorità delle cose più importanti. Le vacanze diventano le cose meno importanti in questo momento, quando c'è la penuria d'acqua, quando ci sono gli incendi, quando ci sono i danni all'agricoltura e addirittura il rischio di colpo di calore con vittime. Ricordo che l'estate 2003 fece in Europa 70.000 morti, quindi da tenere presente che il caldo è un killer silenzioso. E anche nel 2015, luglio 2015, fece in Italia circa 15.000 morti nella popolazione ovviamente anziana e malata. Comunque il nostro ascoltatore può senz'altro percepire un fatto, che il mese di agosto tradizionalmente è sempre stato un mese dove dopo il giorno 15 in genere l'estate si considera finita o comunque con l'arrivo del fresco e dei temporali. Ecco, negli ultimi 15 anni agosto è diventato un mese a tutti gli effetti estivo come luglio, quindi la probabilità di avere tempo soleggiato in agosto è superiore oggi che 30 anni fa. La ringraziamo Luca Mercalli, abbiamo sentito climatologo e abbiamo parlato anche di riso. Parliamo proprio di alimentazione e su quelle regole che bisogna seguire quando c'è molto caldo, con Elisabetta Marcosini, biologa, nutrizionista, ospedale Humanitas Mater Domini. Buongiorno. Cosa Buongiorno bisogna mangiare quando fa caldo? Vabbè, la frutta, questo si sa. Questa però... è la frutta, ma forse ancora di più un alimento che viene sempre un po' dimenticato, che è banalmente l'acqua, che è l'alleato migliore per combattere gli effetti collaterali dell'estate. Quindi classici 2 litri al giorno, magari anche un po' di più, perché bisogna ricordare che basta che si innalzi di solo 2 gradi o abbiamo delle condizioni ambientali di scarsa ventilazione, un alto tasso di umidità, può determinare un'importante perdita di liquidi, come diceva la persona che ha parlato prima di me, soprattutto per gli anziani e per i bambini. Ecco, quello che io ci tengo sempre a sottolineare è evitare gli alcolici, limitare il tè, limitare il caffè, perché agiscono come diuretici e quindi favoriscono una ampia disidratazione. E sempre non bere troppo freddo, perché chiaramente bevande fredde potrebbero provocare disturbi anche gravi, come una congestione che chiaramente non sarebbe gradita. E come diceva giustamente lei, mangiare ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e di verdura fresche, chiaramente di stagione, che favoriscono naturalmente un apporto corretto di micronutrienti e di fibre, e oltretutto ricordiamo che sono anche ricchi di acqua, quindi questo è estremamente importante. Senta, dottoressa Macorsini, sì. Abbiamo sentito anche l'assessore prima del Comune di Roma che diceva, consiglia soprattutto agli anziani, ma di non fare troppa attività fisica. Assolutamente. È così, perché insomma, noi sappiamo che lo sport fa bene, anche un po' di moto per gli anziani, magari non andare a passeggiare alle 2 del pomeriggio, però certo, una passeggiata certo. Serale? Una passeggiata serale, un giro in bicicletta, ma anche le piscine. Io ho un papà di 81 anni che va tutti i giorni a nuotare, banalmente, ma in modo che nel periodo più caldo della giornata noi purtroppo siamo a Milano e quindi abbiamo una città molto calda, molto afosa, molto umida, può essere gradevole andare a farsi una bella nuotata e poi magari consumare dei frullati, dei centrifugati, degli estratti, quindi qualcosa che magari la persona anziana non è molto attirata dal liquido e tantomeno dall'acqua, ma qualcosa di più gradevole, di più saporito, che oltretutto apporta fibre, sali minerali, vitamine e nello stesso tempo in modo diretto acqua, possiamo anche allungarli con l'acqua naturale e può in parte aiutare una persona anziana a evitare la disidratazione. Allora ringraziamo la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa e nutrizionista all'ospedale Humanitas Mater Domini, e vorrei chiedere a Federico Taddia, hai ascoltato bene, al nostro Federico Taddia, perché lui da settembre su Radio 24 condurrà la trasmissione Padri Eterni in onda la domenica insieme a Matteo Bussola, che affronta il tema del rapporto con i figli e la conciliazione tra lavoro e famiglia vista dall'ottica maschile. Allora adesso, come padre, visto che tu ti occuperai di questo argomento, hai sentito che cosa bisogna fare per nutrirsi e anche nei confronti dei propri figli? Hai preso nota? Frullati, acqua e piscina, mi sembra questo il trio magico, giusto? Frullati, acqua e piscina, dopo a settembre ti interroghiamo. Allora, quindi parte questa nuova sfida, Federico. Una nuova sfida, sì, dai, sarà credo divertente, già il titolo fa capire insomma che ci sarà anche un po' di leggerezza nell'affrontare un tema che è assolutamente attuale, no? Che è quello dei padri moderni, che sono padri presenti e assenti, padri incasinati, tenteremo di dare punti di vista e strumenti utili anche per una convivenza di qualità con i propri figli. Senti, ma noi ti abbiamo interpellato oggi anche per un'altra cosa. Abbiamo sentito che insomma passeggiare alle 2 del pomeriggio o fare jogging non è proprio adatto in questo periodo, però è adatto giocare sempre, ma anche sulla spiaggia, ai giochi da tavola. E tu hai scritto un divertentissimo articolo sulla Stampa sul Risico, che compie ben 40 anni. Io sono di quella generazione e mi ricordo questo problema della Kamchatka, perché quando si conquistava la Kamchatka poi generalmente si vinceva la partita tra i carri armatini neri, i carri armatini rossi, i carri armatini verdi. Io sempre viola, quindi ero sfigatissima, e la sfida c'era sempre tra un mio amico che usava i carri armatini neri, che era un po' di destra, e quello che usava i carri armatini rossi, che era un po' di sinistra. Allora parlaci di Risico, è ancora un evergreen questo gioco. È ancora un evergreen, perché quel camcaccia o morte, no? Che è un po' il modo di dire dei grandi appassionati, tuttora vale. Pensa che, allora, come vendita delle scatole si gioca al primato con Monopoli, però Risico è in assoluto il gioco più giocato in Italia, con decine di club, con un campionato nazionale, con tantissimi iscritti, e quest'anno compie 40 anni, un gioco che è diffuso in tutto il mondo, il Risico, però 40 anni fa è arrivato anche in Italia, e c'è un'intuizione tutta italiana e solo italiana, che è quella dei carri armatini, che neppure io lo sapevo, cioè i carri armatini colorati li abbiamo solo nella versione italiana del Risico, che è un po' la fortuna di questo gioco, no? Perché comunque porta quel tocco di leggerezza, di magia, anche è l'elemento veramente ludico, quello del carro armatino, che è solo italiano, nelle altre nazioni non si utilizza. E dopo 40 anni si gioca ancora tantissimo questi pomeriggi infiniti, o queste nottate infinite attorno a un tavolo, dove tra l'altro ti dico una cosa, la Kamchatka, che è molto bella, però come nazione non vale tanto. Sì, è vero, cioè è bello conquistarla, però sono altre le nazioni centrali, per esempio la Cina, perché ha tante altre nazioni confinanti. Ma è un gioco che è entrato nella nostra cultura, nel nostro modo di parlare, la parola Risico fa anche parte del gergo, ha veramente cambiato così il nostro immaginario ludico. Rimani con noi, Federico, perché io intanto voglio chiedere intanto alla dottoressa Macorsini, primo, se ha mai giocato a Risico, e secondo, che cosa consiglia come sport estivi. Allora, dunque, io devo dire, Risico sono veramente, mi prende in un momento che le devo dire che non ho mai giocato a Risico, però ho sempre fatto molta attività fisica, soprattutto d'estate, banalmente la pallavolo in spiaggia, oppure le grandi nuotate, oppure delle immersioni, oppure ancora la bicicletta la sera o la mattina presto, delle passeggiate e il tennis. Quindi fondamentalmente questi sono sport che si fanno d'estate all'aria aperta, c'è anche il golf che di solito per le persone anziane è molto piacevole perché fanno delle camminate all'aria aperta, non è particolarmente faticoso e hanno la possibilità anche di socializzare. Ecco, questi sono un pochino gli sport nel periodo caldo che ci fanno piacere e ci mantengono in forma. La ringrazio, allora ringrazio la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa e nutrizionista ospedale Humanitas Mater Domini. Torniamo a parlare del risico, Federico, perché intanto cominciamo a dire che è un gioco dove bisogna conquistare tutto il mondo, no? Si parte esatto. Dai continenti, infatti io mi ricordavo che bisognava prima prendere l'Africa o l'America del Sud. Dipende dall'obiettivo che hai, no? Ci sono i famosi 18 territori più un continente a tua scelta, ci sono alcuni obiettivi, ognuno ha il proprio obiettivo, il gioco sta proprio nel tenere nascosto il proprio obiettivo e cercare di capire l'obiettivo degli avversari. C'è stato poi un risico diverso, hanno tentato, no, di fare altre versioni rispetto a quella tradizionale, però non ha preso piede, perché? Ma ci sono tante versioni, no? Declinazioni o tematiche o variazioni di regole. Parlavo con Spartaco Albertarelli, che è uno degli uomini che più ha contribuito alla diffusione del risico in Italia, è anche stilato il regolamento ufficiale per i tornei, che di fatto ogni giocatore porta delle sue varianti. Per esempio mi raccontava di un gruppo di amici che giocano dove chi ha i cararmateni verdi, per esempio, è posseduto da una forza aliena, quindi ha regole proprie, no? Sono i verdi, quindi gli alieni, contro tutti gli altri per conquistare il mondo. Una variante demenziale, però che ti fa capire quanto la fantasia dei singoli giocatori abbia poi contribuito al gioco. Quindi forse non c'è tanto bisogno di altre versioni, perché sono i giocatori stessi a cambiare le regole a proprio piacimento. Quindi credo che il gioco originale abbia mantenuto la sua forza proprio per questo, proprio perché ti permette mille possibili declinazioni. Senti Federico, altri giochi invece estivi, anche da tavola e non? Ma sono tantissimi. Guarda, proprio in questi giorni è uscito un libro bellissimo che vi consiglio, di Andrea Angiolino, che è il massimo esperto italiano di giochi, che si chiama Storie di giochi, e racconta proprio dalla Chiapparella, che è il primo, in poi tutti i giochi italiani e soprattutto la loro storia. Ti fa capire come i giochi che facciamo adesso, ma prendi il Sudoku per esempio, prendi il nascondino, prendi il Razzle sullo smartphone, sono di fatto evoluzioni di giochi del passato, quindi c'è proprio una sorta di ciclicità nell'attività ludica che è molto bello, e quanto la storia dei giochi sia intrecciata con la storia dell'uomo, dalle biglie, che sono il gioco da spiaggia tipico, no? Andando a vedere la storia, io per esempio non le ho viste, ma parlando con per esempio con mio padre, le biglie una volta erano un elemento della gazzosa, no? La bibita, dove nel tappo c'era questa biglia, tu speravi di trovare la tua biglia preferita con la quale poi andavi a giocare con gli amici, cercare di vincere le biglie altrui. Il gioco delle biglie è un altro gioco da spiaggia, vedi ancora oggi i bambini giocare, fare queste gare proprio col dito e la biglia che va, proprio per farti capire come ci sono dei giochi che sono veramente evergreen e non temono la concorrenza degli smartphone. Allora diamo la linea alle strade per vedere com'è la situazione del traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Ma cos'è quest'estate? E poi all'improvviso mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, sei un pezzo di me. Ah, ah, ah. Sei un pezzo di me, sei un pezzo di me. Ecco, sempre in tema estivo abbiamo sentito Federico Daddia, che è ancora con noi sul risico, ma c'è anche chi fa dei giochi un pochino più azzardati, tipo attraversa il lago con la sua Vespa. Francesco Foti, docente di meccanica all'Istituto Nautico Enrico Fermi di Bagnara e vicepresidente del Vespa Club di Villa San Giovanni, che cosa succede dalle sue parti? Allora, più che il lago abbiamo attraversato lo stretto di Messina, che è ben altra cosa, con la Vespa. Buongiorno innanzitutto a tutti i radioascoltatori. Volevo solo puntualizzare questo. Questo è un progetto che è nato da una mia idea e poi si è concretizzato nei laboratori dell'Istituto Nautico Enrico Fermi di Bagnara Calabra, nella fattispecie nella sede coordinata di Villa San Giovanni. E quindi abbiamo lavorato un anno e mezzo, abbiamo fatto delle prove in mare, abbiamo avuto nella seconda prova in mare, fatta appena nel giugno adesso, 2017, dal TRINA, dal Registro Navale Italiano, abbiamo ottenuto l'approvazione, perché è ovvio che per passare lo stretto di Messina è necessaria una opportuna autorizzazione del RINA, del Registro Navale, che ci ha certificato il mezzo, l'idoneità del mezzo. E quindi dicevo che questo progetto nasce dall'entusiasmo con cui la mia dirigente scolastica, la professoressa Graziella Ramondino, dell'Istituto di Istruzione Superiore di Bagnara Calabra, ha colto l'idea e ci ha messo a disposizione, ha voluto che questo progetto fosse realizzato all'interno della scuola. Poi si parla di, ecco, la interrompo per far capire ai radioascoltatori che si tratta di una Vespa vera, cioè una Vespa anfibia, non è una moto d'acqua, è una Vespa che galleggia grazie a due kayak, così, perfetto, no? Perfetto, noi abbiamo approntato una struttura in acciaio e alluminio sostenuta da due kayak e quindi abbiamo posizionato la Vespa su un sistema di rulli che mediante una catena cinematica trasmette il moto dalla ruota posteriore della Vespa, che quindi viene normalmente avviata con la pedivella. È una Vespa del 53, una faro basso, vacanze romane per intenderci, e quindi una Vespa un po' vecchiotta, e di conseguenza abbiamo dovuto anche affrontare problemi di resistenza, perché lei capisce bene che sforzare mezzi del genere significa poi rischiare di rimanere in acqua, no? Le dicevo, quindi, assieme al mio presidente, il dottor Francesco Pratticò, il presidente del Vespa Club, abbiamo pianificato un po' tutta questa quest'evento che ha riscosso un notevole successo, perché è avvenuto in una cornice splendida, in una giornata tra l'altro ancora più splendida, sullo stretto di Messina. Siamo partiti da Punta Faro, laddove c'è il traliccio dell'alta tensione, e quindi siamo partiti alle 11 e siamo arrivati, abbiamo toccato le sponde calabre alle 11:41, mi pare, ci abbiamo messo 41 minuti e 39 secondi, quindi c'erano anche i cronometristi del CONE che hanno attestato questo tempo, diciamo, dell'impresa. Insomma, questo tempo dell'impresa. Invece noi andiamo adesso in Friuli, dove si svolge tutt'altra cosa, perché un mese senza luce, soldi né vestiti, senza telefonino, il raduno degli ultimi hippie in Europa, in 3.000 vengono da tutta Europa e sono anche vietati i detersivi. Ne parliamo con Gigliola, che è volontaria, partecipa all'organizzazione del raduno, e è un raduno in dimensione europea, ma addirittura senza detersivi, perché i telefonini va bene, ma come vi lavate? Salve, io sono Gigliola e niente, ci laviamo anche solo con l'acqua, possibilmente lontano dalle fonti, così non sporchiamo con l'acqua sporca, la prendiamo fuori dalla fonte in secchi o cose così. Magari sono ammessi quei saponi supernaturali, quelli con sostanze naturali, però, ripeto, fuori dalle fonti, perché le fonti sono quelle che poi con le quali ci laviamo e quelle piccole dalle quali beviamo. Ma non c'è un effetto un po' respingente col fatto che non si usano i saponi? No. Lei dice questi saponi naturali bastano, cioè senza deodoranti non c'è un odore sgradevole. Io le chiedo da profana, cioè, io sono un po' malata sulla pulizia, per cui... No, noi siamo per, insomma, invitiamo le persone a fare un po', a tornare alla natura per un periodo, per fare questa esperienza. Infatti volevo approfittare per dire che di solito non è un evento commerciale, non è che noi facciamo pubblicità, non è un evento religioso, non è un evento politico, è solo il desiderio di condividere in armonia, in pace, dei momenti di serenità. Quindi insomma, voi che fate? Poi cantate con la chitarra attorno a un falò, che cosa sì, mangiate? Vegetariano? C'è una cucina comune che provvede a insomma, volontari sempre, che cambiano tutti i giorni, provvede a cucinare per tutti, mangiamo in grandi grandissimi cerchi. Cerchiamo, a volte spesso cantiamo canzoni di pace, di unione. Sì, di... ma e che cosa mangiate? Vegetariano? Ah, mangiamo, sì, mangiamo vegano. Ah, vegano, una vegano. Cosa importantissima, non si compra e non si vende niente, l'unica cosa che... l'unico uso del denaro è attraverso le donazioni al Cappello Magico, volontari, spontanee, dopo il cerchio del cibo, e altri volontari vanno giù a prendere cibo biologico possibilmente con i mezzi e lo riportiamo su per poter continuare la cosa. Ma quindi... vi possiamo mandare Giuseppe Cruciani al raduno IPPI? No, mi sa che non ci viene. Gigliola, senta, un attimo, resti con noi. Federico, un radioascoltatore mi chiede se puoi ridare il titolo e l'autore del libro dei giochi di cui hai parlato poco fa. Certo, Storia di giochi, autore Andrea Angiolino, di Fregallucci. Storia di giochi, Andrea Angiolino. E un altro radioascoltatore mi chiede, invece, per Francesco Foti, quanto inquina questa Vespa sull'acqua? Con tutta l'innovazione che c'è oggi, non si poteva adottare un sistema più rispettoso dell'ambiente? Abbiamo poi, sentiremo anche Gigliola su questo punto. Professore? E allora, in merito all'inquinamento, voglio dire, per quanto attiene allo smaltimento dell'acqua di raffreddamento, perché abbiamo predisposto anche un impianto di raffreddamento, abbiamo un serbatoio che carica sia l'olio di lubrificazione, e quindi assolutamente l'inquinamento è dovuto naturalmente al fatto che la Vespa del 53 non può essere un Euro 4, no? E di conseguenza l'inquinamento è relativo, anche perché sono mezzi che ancora possono circolare durante i raduni, durante le manifestazioni e ancor più durante un evento irripetibile, perché deve sapere che questa è la seconda volta al mondo e la prima volta in Italia, perché un'altra traversata della Manica è stata fatta da un francese, un Moneret, nel 1952, che ha attraversato la Manica in sole 5 ore, al secondo tentativo peraltro, perché al primo tentativo ha avuto un problema di trasmissione. Quindi voglio dire, l'inquinamento è stato praticamente al di là dello scarico, ma le ripeto, è come se la Vespa stesse viaggiando su una strada. Assolutamente, il mare è stato, siamo stati rispettosi dell'ambiente marino, perché abbiamo previsto tutto. Rispettosi. Federico Daddia, ricordiamolo, sarà a settembre su Radio 24 la domenica insieme a Matteo Bussola con Padri Eterni, programma che affronta il tema del rapporto con i figli e della conciliazione tra lavoro e famiglia vista dall'ottica maschile. Tu andrai anche tu, magari vuoi provare il raduno IPPI oppure la Vespa sull'acqua, o continuerai a giocare tranquillamente a Risico? Continuerò a giocare, no, raduno IPPI no, la Vespa nemmeno, però insomma sarà un'estate in movimento, dove ci sarà anche spazio per il gioco, perché comunque è un'attività che mi piace. Che ti piace. Gigliola del raduno IPPI, un radioascoltatore chiede, ma che lavoro fanno? Io la provoco allora, un po', sti finti fricchettoni, dice, vorrei dice Carlo. Vorrei questa cosa, lo avete insomma chiamato raduno IPPI, però in realtà non è proprio insomma così schematico, perché le persone che vengono appartengono a tutti i ceti sociali, appartengono a svariate nazionalità, appartengono a svariate religioni, hanno idee, quindi non è che c'è, è solo un richiamo a chi vuole vivere un momento in contatto con la natura e in armonia con le altre persone, è una possibilità, quindi non è riservato a ma che persone nazionalità? Particolari, anche lei se volesse venire, sì, che avesse sì, ma io, questo desiderio, cioè... è invitata, non è destinato a tutti possono venire. No, no, ma io guardi, ho fatto la scout, mi ricordo che c'erano poi questi momenti in cui si faceva deserto e devo dire che ho capito lì che non ero proprio fatta come persona per il deserto, quindi è un pochino questo, ma di che nazionalità sono le persone che vengono? Assolutamente tutte le nazionalità. Maggior parte? In Italia, da tutte le parti d'Italia, da tutta Europa, molti americani anche, considerato che questo movimento è iniziato nel 72 in America, poi dopo si è espanso dall'81 in Europa e ogni anno si fa in una nazione diversa. È un movimento, diciamo, in movimento, ecco. Nel senso che ogni anno cambia nazione, quindi noi semplicemente con un tam tam per chi lo vuole ascoltare ci raduniamo così, ma non ha uno scopo, ripeto, né commerciale, né religioso, né politico, è solo il desiderio di stare insieme, condividere momenti di serenità. Allora, ringraziamo Gigliola, appunto non è un raduno hippie, però insomma è un raduno naturalista, mettetelo come vi pare, è sicuramente un mese senza luce, soldi né vestiti, detersivi e telefonini in Friuli, vengono da tutto il mondo. Ringrazio Francesco Foti, docente di meccanica all'Istituto Nautico Enrico Fermi di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, che ci ha raccontato di questa traversata sulla Vespa Vera sul canale di Sicilia. E poi ringrazio ovviamente Federico Taddia, che ricordiamo sarà di nuovo con noi a settembre con la nuova trasmissione Padri Eterni. Poi ringrazio la redazione Barbara Bianchi, Marco Lombardo e Antonella Migliaccio e Valerio Rocchetti in regia. Noi ci risentiamo domattina, la linea passa al giornale radio.